Beh, la domanda viene spontanea guardando i dati. Effettivamente l'Europa va negli ultimi anni quasi al doppio del ritmo di riscaldamento che abbiamo registrato per il pianeta nel suo complesso. E probabilmente non ci sta una sola causa. L'Europa è un continente grande, è un continente caratterizzato da una grande quantità di terra. Sappiamo che la terra, la superficie terrestre si riscalda di più degli oceani, quindi questo può aver giocato un ruolo. Ci stanno anche una serie di fattori locali che possono aver giocato un ruolo, come la perdita del ghiaccio polare nell'Artico, la perdita della neve. Abbiamo avuto specialmente nel 2022 molti meno giorni con precipitazione nevosa non solo sulle Alpi ma anche in buona parte dell'Europa centrale, per esempio. In ultimo anche una tendenza verso una situazione più arida: l'aumento delle temperature aumenta la quantità di acqua nell'atmosfera, aumenta l'evaporazione dalla superficie terrestre, che in un qualche senso risponde più velocemente in mancanza di acqua al riscaldamento. Per cui una serie di fattori, non necessariamente uno solo, ma che lavorano insieme. Ed è anche vero che ci sta probabilmente anche un aspetto statistico, cioè se guardiamo negli ultimi decenni è vero che l'Europa si è riscaldata di più, ma nei decenni precedenti non era così. Negli anni 80 o giù di lì, andando ancora più indietro, era ancora meno evidente questo riscaldamento. Ci sarà sempre una parte del pianeta che si riscalderà più velocemente e una che andrà un po' più lento, per cui ci sta anche questo aspetto statistico che bisogna tenere in considerazione. Quali sono le condizioni meteorologiche che possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Con esattezza noi possiamo predire quello che succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, però più andiamo in là e più non sappiamo esattamente quello che succederà. Possiamo soltanto caratterizzarlo da un punto di vista statistico, diciamo, come la probabilità di vedere alcuni fenomeni può aumentare o diminuire per effetto di cambiamenti a larga scala che sappiamo che potrebbero avvenire. In questo senso quello che può guidare un po' la distribuzione delle probabilità di alcuni eventi è quello che succede nel Pacifico, nell'Oceano Pacifico, dove sappiamo che stiamo passando da una fase della Niña, che vuol dire una fase in cui le temperature superficiali dell'oceano sono più fredde del normale, a una fase del Niño. Non siamo, adesso siamo in una situazione neutra, per cui la temperatura è più o meno simile alla media su un lungo periodo per il Pacifico centrale, ma ci aspettiamo, tutti i modelli meteorologici disponibili si aspettano una transizione verso situazioni più calde tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Se così fosse, ci potremmo aspettare nei prossimi, diciamo, 24 mesi, 12-24 mesi, un nuovo picco nella temperatura media globale, che tipicamente è più alta durante i mesi, durante gli anni del Niño, perché per effetto di questo aumento della temperatura del Pacifico. La connessione con l'Europa non è fortissima tra il Pacifico e il nostro continente, però sì che danno dei piccoli segnali. Sappiamo che in media negli anni del Niño la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno tendono ad essere più umidi sul Mediterraneo di quanto non lo siano gli anni della Niña, per cui questo potrebbe essere un po' un segnale che potrebbe avere un ruolo. L'altro aspetto non è tanto legato al Niño, ma è legato ai cambiamenti climatici. Come dicevamo prima, l'Europa si sta scaldando, sappiamo che l'estate è andata scaldando in modo abbastanza chiaro, per cui se non altro per questa tendenza che esiste nelle osservazioni e non solo nelle previsioni dei modelli, possiamo aspettarci che avere un'estate più calda sarà più facile che non avere un'estate fredda. L'Emilia Romagna naturalmente è stata appena colpita da piogge molto intense. Per quanto riguarda la prevedibilità degli eventi estremi, ammesso che ci sia, diciamo, un grado di prevedibilità, quanto è ristretto, quanto è prevedibile per allertare la popolazione, insomma? È difficile una risposta concisa o chiara su un punto tanto complicato come quello degli eventi estremi. Sappiamo che i cambiamenti climatici aumentano la temperatura del pianeta, ma aumentano anche la quantità di umidità disponibile nell'atmosfera, e questo è un argomento che fa pensare che alcuni fenomeni estremi, in particolare la precipitazione estrema, debba anch'essa aumentare. E se guardiamo le osservazioni sappiamo che questo è il caso in buona parte dell'Europa, meno evidente sul Mediterraneo, ma sul resto dell'Europa il segnale è molto evidente. A questo punto diventa ancora più importante utilizzare i mezzi a nostra disposizione per prevedere questi eventi estremi, perché l'allarme qualche ora prima, qualche giorno prima, può fare una differenza molto significativa. E in questo senso quello che fanno i servizi meteorologici nazionali è molto importante, e questo si basa sui dati dei modelli meteorologici, delle osservazioni osservazioni che sono a nostra disposizione e si basa anche sullo sforzo internazionale, per esempio quello del Centro Europeo di cui faccio parte e di cui l'Italia è un membro della primissima ora, che fornisce informazioni meteorologiche per le prossime ore, giorni, e settimane e mesi. Quindi un'intera parte del nostro lavoro che è valutare la qualità delle previsioni, e ci sono molti modi per valutare quanto sono buone le previsioni, anche e soprattutto in relazione agli eventi estremi. E molti di questi indici sono andati migliorando in modo estremamente significativo negli ultimi decenni, per cui prevedere quello che succederà nel futuro è sempre un esercizio complicato, però i nostri strumenti sono ogni giorno più buoni e ci aiutano sempre di più a essere preparati a questi eventi. Quindi diciamo è ragionevole supporre che la frequenza con cui arriveranno eventi meteorologici estremi aumenterà. La frequenza e l'intensità di alcuni fenomeni estremi aumenterà, questo è vero. Io tendo sempre a fare un distinguo, perché ci sono alcuni eventi estremi la cui intensità e frequenza diminuirà, come può essere precipitazione nevosa sul lungo periodo o gli estremi freddi del clima, anche questi sono estremi, e questi ovviamente diventeranno meno intensi e meno probabili col tempo. Però per gli aspetti di precipitazione intensa, come dicevo, esiste un argomento teorico basato sulla nostra comprensione di come funziona la termodinamica dell'atmosfera. Esiste un'evidenza sperimentale, cioè i dati ci dicono che in tutto il mondo, certamente in una buona parte d'Europa, questi eventi più estremi in cui la precipitazione è particolarmente intensa o che non ha precedenti nel record climatico, sono diventati più intensi e più frequenti. Per ultimo ci stanno quello che ci dicono i nostri modelli. Guardando i modelli di proiezione climatica, cioè quelli che ci dicono quali saranno le condizioni medie del clima nei prossimi decenni, vediamo che in buona parte del pianeta questi eventi estremi, precipitazione intensa e ondate di calore, questi diventeranno più intensi e più frequenti. E l'ultima domanda è una curiosità mia in realtà. Mm-hmm. Sapevo di questo progetto a cui si sta lavorando tra il Cineca e il Centro per le Previsioni Meteo a medio termine di Destination Earth, di riprodurre un gemello digitale della Terra. Questo come potrebbe aiutare? Si possono vedere come due facce della stessa medaglia. Cioè, da una parte bisogna continuare a fare servizi, a fare previsioni operative, a fornire le informazioni in un modo che le renda fruibili agli utenti, e dall'altra parte bisogna spingere la scienza, la tecnologia per fare un passo avanti. E Destination Earth sta facendo sta giocando un ruolo molto importante in questo. Questi gemelli digitali del pianeta, una delle cose su cui spingono, non è l'unica, ma una cosa su cui spingono molto, è aumentare la risoluzione dei nostri modelli. E noi sappiamo che la risoluzione, che vuol dire il passo di griglia tra un punto e il punto vicino, gioca un ruolo importante nel descrivere la fisica del fenomeno. Per cui arrivare a risoluzioni in cui, per esempio, le celle temporalesche possano essere risolte in modo esplicito, in cui uno possa vedere l'interazione tra una cella convettiva e la vicina, possa vedere l'interazione con il suolo, con le città, con le scelte che possono venire fatte a livello locale sulla gestione del territorio, questo diventa ogni giorno più importante, e spingere questa risoluzione ci permette di affrontare questi temi. Quindi questa è una delle cose in cui Destination Earth giocherà sicuramente un ruolo molto importante. E l'altra è quella di coinvolgere l'aspetto decisionale nella parte modellistica. Cioè al momento la decisione viene fatta a partire da output meteorologici di qualche tipo, però il decisore o il politico non può entrare nella modellistica e cambiare qualcosa. Ecco, il modo in cui in generale la popolazione e poi i politici potranno in un futuro interagire con le simulazioni sarà molto più prossimo, in cui uno può immaginare di vedere qual è l'intervento, quale sarà la risposta di un certo intervento, che possa essere l'afforestazione o un disegno diverso della città o una scelta idrogeologica di qualche tipo, quale possa essere il risultato di quella decisione sulla simulazione climatica o meteorologica. Quindi questo è l'altro aspetto molto interessante di Destination.